pesca per arrivare pump up the volume. il primo brano di questo mini album del 2019. La traccia che abbiamo appena ascoltato si chiamava I'm My life is yours. Kojak always gets the killer, and that nobody ever gets cancer in Archie Bunker's house, and no matter how much trouble the hero is in, don't worry, just look at your watch, at the end of the hour he's going to win. We'll tell you any shit you want to hear. Want to hear? And you will not. whole godless world, who knows what shit will be peddled for truth on this network. Germania molto arrabbiata, diciamo. Adesso andiamo a ascoltare l'ultimo brano di Airplane Orchestra e poi andiamo a passare alla mezz'ora un po' più tranquilla della nostra trasmissione, in cui metteremo qualche musichetta un po' più danzereccia e meno sperimentale. Yeah. The Gloomy Side o Noise Wall, che potete sempre trovare su www.jamendo.com. E adesso passiamo invece ad una compilation selezionata e mixata da un autore italiano che anche lui ha scelto di usare Jamendo per difendere la propria musica, e andiamo a ascoltare appunto questa compilation chiamata Free Tech. ricordo che state ascoltando Radio Pirata 38 e il brano che sta passando adesso è uno dei tanti brani che trovate sulla compilation Free Tech House, Tech House volume 1 di Alex Palumbo, che è reperibile sul sito. quello come accennavamo prima, ovvero Valerio Maina, che ultimamente pubblica anche lui su un sistema web di diffusione delle proprie tracce, sempre in modo assolutamente libero e gratuito, che si chiama SoundCloud, che potete trovare all'indirizzo soundcloud.com, come nuvola suono dall'inglese. E adesso ascolteremo qualche traccia appunto di Valerio Maina. Quella in particolare che ascoltiamo ora è una registrazione di una serata ad un locale sulla Casilina, in cui hanno suonato lui e Mar Knight. Yeah. Smith, e in particolare la traccia si chiama Casilino Holland, e come vi dicevo potete trovarla su soundcloud.com. Ed ora andiamo a ascoltare Indefinitely Yours, sempre di Mario. che state ancora ascoltando Radio Pirata 38. Questa è Pump Up The Valium, che vi accompagnerà ancora un po' per questo sabato sera, come tutti i sabati sera ormai dalle 9 alle 10 qui su Radio Pirata 38. E quello che stiamo ascoltando, scusate, vi ricordo che è Valerio M, un nostro caro amico e fratello, che produce diversi tipi di tracce, li potete trovare su SoundCloud, e la traccia che andiamo a ascoltare si chiama Toppe, insieme a Luca Antonioli. We'll be right back. E andiamo ad ascoltare ancora un altro paio di tracce. Questa volta sono sempre di Valerio M, lo stesso autore di cui parlavamo prima. Adesso però le andiamo a prendere da Fertilizer, che è un altro sito dove è possibile condividere la musica in modo semplice e rapido ed efficace. Pare che non sta suonando affatto.